radiation, radiation. Buonasera e bentornati a una puntata doppia questa settimana di Metal Zone. Questa sera una puntata molto più interessante perché abbiamo un gruppo e abbiamo questa sera facciamo un'intervista live di altissimo livello, perché con noi questa sera ci sono Yank. Edoardo e Mario questa sera sono venuti a Poggio Marino a onorarci della loro presenza per presentare per presentare il loro lavoro e soprattutto per farsi conoscere, perché come sapete Metal Zone rispetta un format che è quello di conoscere le varie band attraverso la loro storia musicale, che è la cosa più bella. No, no, no, ultimamente ho parlato anche di un gruppo metal, come i Queen of Stone Age, ho parlato dei The Sword, quindi siamo preparati anche su quello. No, io, il pubblico lo sai, è sempre un po' metaller old school, però insomma si adeguano e si adegueranno e sentiranno sicuramente la vostra storia. Ragazzi, voi vi formate nel 2002. Come è nato questo progetto? Come è nato questo progetto Hank? Cosa ce l'avete messo dentro? Perché io ho letto che è anche sì frutto di collaborazioni occasionali, incontri anche in bar e cose, cioè, magari ragionati a tavolino con una mente non proprio lucida, però lascio parlare voi. Ok, mi avvicino un po' più, perché mi dicono di avvicinare, mi sentite stessa? Ok, siamo, com'è nato? È nato, vabbè, la vecchia formazione, eravamo tutti amici, logicamente siamo trovati con la solita storia in cantina, sale prove, a suonare, vari concorsi, io suonavo con un gruppo di Napoli, poi c'era il mio vecchio batterista che suonava con me, decidemmo di formare questa band, poi gli altri se ne sono andati, finché ho trovato il mister Mario Carillo alla batteria, qui con cui sto lavorando da più di 8 anni, ci siamo, dal 2008 ci stiamo divertendo un sacco, e la domanda era cosa... Ci siamo formati così, tramite amicizia, con la voglia, dato che viviamo in periferia, la voglia è quella sempre forte di... sai, di trovare dei buchi, degli spazi durante l'arco della giornata, degli sfoghi, gli unici sfoghi, penso, non so se tu mi dai ragione. È un ottimo modo per ammazzare il tempo. Per ammazzare il tempo. Che ci siano tante cose da fare. Bravo, quindi suoniamo, ci siamo divertiti. La cosa che ci ha sempre contraddistinto è che ci dopo aver fatto un paio di pezzi dei Nirvana, all'epoca, ci rompevamo le palle di fare cover e quindi decidevamo di cercare di creare qualcosa di nostro. Abbiamo bene o male sempre fatto pezzi nostri. Vi siete ispirati a varie band perché voi questa sera avete creato una vostra playlist personale che è al di fuori dei vostri brani. Chiaramente c'è anche una playlist ufficiale degli Yang questa sera. Quello che volevo chiedervi, appunto, questo concetto di cover, che poi è sempre il primo passo di ogni band, di ogni gruppo che si sta formando, si deve formare sicuramente, certo. Voi questo concetto di cover l'avete abbandonato quasi subito. Sì, perché è la voglia, sai, anche un po' per presunzione adolescenziale, diciamo, avevamo voglia, almeno per quanto riguarda me, ma non so mare, avevamo voglia di... Lui suonava, per esempio, lui suonava in un altro gruppo di Napoli, che era, cioè di Sarno, che era molto interessante, Ligea, ed erano molto bravi, poi, vedi, anche lui quindi veniva da esperienze, cioè dalla voglia di dire voglio scrivere pezzi miei, la cover facciamola, ci divertiamo pure, però è dura, è dura perché parliamo del genere, voi avete scelto un genere abbastanza particolare, che non è proprio configurabile con un genere standard, diciamo. E questa cosa però secondo me va più che bene, perché bisogna sempre distinguersi dalle cose che sono comuni. Io ti ringrazio. Già super sentite, anzi io devo dirti che la prima cosa, adesso scherzando ti dicevo prima, tu quando canti mi pare che sei sempre incazzato, ma questa tua rabbia, questa tua ira si rispecchia chiaramente in una meccanica del disco, perché tu, certo, fai parlare te stesso attraverso quel disco e attraverso quella voce che poi sentiremo chiaramente. Vabbè, noi cerchiamo di dare comunque, di dare sfogo a, dico prettamente, a sensazioni personali profonde. Non siamo un gruppo politico, anche perché più che altro, allora, siamo politico nel senso che a me piace la politica, appartengo a una determinata cosa, ideologia politica, però non sono capace di scrivere testi politici, adoro gente che sa scrivere pezzi, però i pezzi nostri sono molto intimi, diciamo, anche se a volte con un po' di ironia e metafore riusciamo anche a parlare di temi sociali, eccetera eccetera. Temi sociali come quelli che affrontava Zac Della Rocha a suo tempo, quando lui scrisse questa canzone che voi avete scelto di farci ascoltare questa sera, io sono felicissimo, per quanto riguarda i diritti degli indiani d'America, perché tu stasera mi hai portato un pezzone, un classicone, ci andiamo a sentire subito e torniamo tra poco con Yank, Rage Against the Machine, People of the Sun, questa è Metal Zone. Wow, okay. People come up. Up on this one. Check this 1516 minds are tested overseen. They call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the top of Metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters look twisted, get offensive like that. The fixed sunset, get back proclaimed. The spirit of whatever, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. War to war, fire, the seeker. The you came to try to steal your name, but now you got a gun. Eccoci on air, live and loud, ancora con gli Yank che ci hanno deliziati con questo pezzo da loro scelto, People of the Sun. Si ricordavano concerti a Modena, bello, cose, grandi emozioni. Grandi emozioni sempre del Zach Della Rocha. Volevo anche ricordare che avevo letto che c'è un nuovo progetto dei Rage Against the Machine mischiati. Senza il cantante, però è ancora tutto in embrione. Ma non è in embrione il vostro ultimo lavoro di cui voglio assolutamente parlare. C'è un piccolo lavoro, un piccolo figlioletto che abbiamo cacciato così, giusto per divertirci un po'. Un figlioletto di cui tu mi hai accennato l'esistenza qualche mese fa. Io mi sono subito appassionato, ti ho stalkerizzato, ho visto tutto, mi sono informato, vi ho sentiti e devo dirti che i brani veramente sono di un'altissima qualità. Mi piacciono molto i testi perché sono introspettivi. Ci fa emozionare. Sono introspettive. Io sono un lupo solitario, quindi bene, mi ci ritrovo appieno. Parlami un po' di questo album e parlami soprattutto dell'apporto di energia che ci hai messo in questo album, che è la cosa più importante. Guarda, allora, i brani sono un po' vecchi, non è che sono recentissimi. Abbiamo deciso di farli uscire così dopo il video che è uscito un paio di anni fa. Abbiamo deciso di divertirci un po' al di là delle serate, eccetera, eccetera, di metterci un po' in studio, e con Seb Di Martino abbiamo deciso di fare questo album. È composto prettamente da tre brani, diciamo due e mezzo. Uno è un intro che non abbiamo, stasera non penso che manderemo in onda, e poi c'è L'Ignobile e La Pena. Sono due brani. L'Ignobile parla prettamente dei colletti bianchi, degli arrivisti, del mondo moderno, del mondo moderno e attuale soprattutto. Mentre La Pena invece è un pezzo un po' più introspettivo, che ci uscì così una sera cazzeggiando in sala e ci siamo divertiti a farlo. Non lo so. Cosa ti ha spinto a scrivere magari un testo del genere? E perché dei titoli così forti? Perché io... Allora, guarda, i testi, allora, a me i testi escono, diciamo, all'improvviso. Io non ci penso, è raro che pensi sui testi, mi piace prettamente, cioè mi focalizzo all'inizio soprattutto sulla musicalità delle parole. Poi mi accorgo di aver scritto un testo, come dire, impegnato, e dico, cazzo, facciamolo. La musica in genere la scriviamo insieme, ma o è Mario che mette i piedi di brani in mezzo, sono io in sala insieme. E, guarda, è un po' più sofferto rispetto all'altro album, è un po' meno allegro, un po' più malinconico, un po' più aggressivo, tra virgolette, diciamo. Forse puoi anche definirlo un album più vero. Sì, può darsi, sì. Di verità, bene o male c'è sempre stata, perché la verità è la nostra verità. A noi piace. Noi vediamo il mondo in un determinato modo, sia musicalmente che con i testi, e cerchiamo di rappresentarlo così e di metterlo in musica. E lo rappresentano veramente in modo eccellente. Noi ce ne andiamo a sentire. Yank con L'Ignobile. Rimanete con Metal Zone. We'll be right back. E rieccoci on air, ancora con Yank, pezzi potenti, amari, cattivi, un gruppo non alla moda, le casse stere emanano polvere e arrabbiatura, io le ho percepite tutte perché veramente è un pezzo da un'elevata tensione e distorsione soprattutto. Con l'ignobile, credo che voi abbiate espresso abbondantemente lo stile che volete proporre in questi pezzi di questo vostro nuovo EP, e quello che non mi spiego è perché avete scelto nella vostra playlist una canzone dei Muse abbastanza lenta. È colpa di Mario. È colpa di Mario. Ecco, io volevo arrivare su Mario, e a questo punto lui è obbligato a dirmi il perché di questa canzone e soprattutto delle sue inflessioni musicali. Allora, prima di tutto è come diceva prima Edoardo, che nonostante suoniamo insieme e scriviamo i pezzi insieme, forse proprio la cosa buona è che abbiamo dei gusti diversi, anche se bene o male il genere non è che cambi più di tanto, però effettivamente sentiamo gruppi diversi l'uno dall'altro. I Muse è personalmente uno dei miei gruppi preferiti, a differenza di Edoardo che... Io l'ho visto anche dal vivo. ma non ti piacciono tanto. Infatti mi stavo addormentando. Uno dei miei gruppi preferiti, ed apprezzo tanto i primi album, perché poi, almeno a mio modo di vedere, hanno fatto un cambiamento. No, dal vivo con mettendo un po' di elettronica, che a me li ho visti anche io mi dal è sembrato vivo. Tanto come se si fossero un po' inaridite le idee. E allora, ritornando al primo album, è il mio preferito, e quindi ho scelto questa canzone che effettivamente è una canzone lenta, però il testo mi intrigava, aveva un significato. Quindi più o meno affermi che sei un po' British nel tuo carattere, insomma. Sei un po'... Lui è British, no? Lui è British, tu non sei British, no, tu sei più teutonico. Io sono longobardo. Longobardo teutonico. Beh, effettivamente non sono proprio apertissimo, però, diciamo... Quando poi... Vabbè, ti piacciono i gruppi comunque bene o male un po' inglesi, sì, certo. Sound, accordi aperti. Ti sorprenderò, uno dei primi gruppi british che ho ascoltato e che ho apprezzato tanto sono gli Oasis. No, io invece sono per i Blur, io non esisterò. Ma questa è la nostra adolescenza. Ma invece me lo scioglio io bene. What's the Story, Morning Glory, uno dei primi album che ho comprato. Ecco, le apparenze ingannano, tutta questa incazzatura poi sviene davanti a un pezzo buoni, di... E prima ancora i Queen. Con i Queen ci trovi d'accordo. Qui apri una porta già apertissima, perché se non vi piacciono i Queen, io questo lo dico anche a tutti voi ascoltatori, se non vi piacciono i Queen avete qualche problemino. Sì, sicuramente loro. Perché io sto sentendo ultimamente, e questo ve lo dico e mi dispiace tantissimo, di ragazzi che magari mi dicono e chi sono i Queen? Oppure no, ma i Queen non mi piacciono. Allora, io ha non una so, voce allora, strana. Allora io non so se c'è la mia ragazza che ci sta ascoltando, ma la mia ragazza le volte che le fece sentire i Queen mi disse: ma chi sono gli Abba? Io la stavo ti giuro, no. Io la stavo lasciando sull'autostrada, mo lei è una delle prime fan dei Queen, ti giuro. Io la stavo lasciando, insomma, mo scendi da macchina perché non mi saluta più. Quindi ragazzi, ascoltate i Queen sempre. E apprezzateli sempre, ma andiamoci anche ad ascoltare la canzone scelta da Mario, perché ci vuole far ascoltare Escape dei Muse. Vi ricordo che loro sono Yank e sono qui con noi live and loud a Via Roma a Poggio Marino, nella sede radioattiva della Prologo. In esclusiva, li vogliamo talmente bene a sti ragazzi, no, che siamo in esclusiva e detto già, dammi il capo, punto e basta. Che onore, andiamoci a sentire Muse. Poi parliamo insieme dopo. Rimanete con Amon e Metal Zone. Escape your meaningless E rieccoci on air, perché gli Yank si sono un attimo preparati, perché vogliono darci la possibilità di ascoltare un album che non troverete da nessuna parte, ce lo fanno solo qui, solo adesso, due brani solo qui. Solo qui, adesso, non avrete opportunità, dovete aspettare, o sentite la Ready Action, ci seguite, o seguite gli Yank, dovete morire, dovete sentire la Ready Action. E questa sera ci propongono la prima loro canzone live, che suoneranno qui, ossia Urlami in faccia. 1 2 1 2 3 4 Sento come urlarmi in faccia il disprezzo più che mai, e mi stracci a morsi l'anima. Grazie al veleno prendo fiato, apro gli occhi ancora un po', le nostre mani a pezzi di lividi. Schiacciami ancora un po', slegami. Questa prigione fatta d'aria che mi deturpa più che mai, e le ossa un ricordo ruvido. Le mie mani stringono aria e i polsi sudano, le nostre mani a pezzi, a pezzi, a pezzi. Schiacciami ancora un po', slegami. Ma che bravi, Yank! Un applausone! Grazie, grazie! Bravi, bravi, bravi! Io vi farei suonare all'infinito, proprio senza esserci un domani. Perché devo... questa canzone forse mi è piaciuta questa qua anche più delle altre. Abbiamo fatto un po' acustica, quindi non so come è venuta. Questa un po' canzone grezza. Mi è piaciuta anche un po' più delle altre, perché il testo è ancora più adeguato, grazie, grazie. Direi, secondo me. Mi emozioni così. Però non ci fermiamo, dai, noi siamo ancora calducci. Cosa ci volete offrire? Cosa ci volete offrire? Dobbiamo suonare ancora? Dobbiamo fare l'altro pezzo? Sì, facciamo quella, vai. Perché fermarsi? Allora, questo è un altro brano che non abbiamo mai suonato dal vivo. E diciamo racchiude un po' quello che siamo, i vari generi che siamo, quindi questi sono gli Yank. Sono gli Yank, ok. Queste gambe fanno sì che non mi reggo più. Una mistura di piacere ormai mi butta giù, e con la lingua tra le mani che non mi sazierà, in quest'acido di vita sconcia quasi la metà. E la morale cola qua, con la tua bocca gonfia di piacere, la pelle umida. Ma come striscio bene io, mi allontano sempre più da voi nell'ora dell'addio. Trascinato, sfatto, bello, sfatto più che mai, mi trascini fra le case di questa città, per poi abbandonarmi come un cane, sai. Questo acido di vita sconcia quasi la metà. La morale cola qua, con la sua bocca gonfia di piacere e la pelle umida. Ma come striscio bene io, mi allontano sempre più da voi nell'ora dell'addio. Gambe fanno sì che non mi reggo più, una mistura di piacere ormai mi butta giù, e con la lingua tra le mani che non mi sazierà, in quest'acido di vita sconcia quasi la metà. La morale cola qua, con la sua bocca gonfia di piacere la pelle umida. Come striscio bene io, mi allontano sempre più da voi nell'ora dell'addio. Fottuta morale via di qua, con la tua bocca gonfia di piacere la pelle umida. Ma come striscio bene io, mi allontano sempre più da voi nell'ora dell'addio. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Read the road, Jack. I won't come back no more. What you say? Yank live and loud Ready Action per Metal Zone. Grandi ragazzi, grandi e bravissimi. E ritorniamo mentre mi danno dei grandi ok dalla regia. Significa che sta andando tutto alla perfezione. Torniamo a voi mentre vi faccio un attimo rilassare, un attimo, un intermission di due minuti. Facci rilassare. Vi faccio rilassare e vi faccio rilassare continuando a parlare della prossima traccia che voglio passare, sempre per rimanere in tema Hank questa sera, ossia questo vostro brano La Pena. Adesso tu mi devi spiegare perché La Pena. Allora, no, è un pezzo molto intimo, diciamo, parla di sensazioni personali, stati d'animo, e guarda, io, a me raramente piace parlare dei brani, secondo me dovete ascoltarlo, ascoltatelo e fateci sapere cosa ne pensate. No, ma io devo chiederti perché io devo analizzare bene l'artista, ovviamente, perché io ho colto bene le sfumature di questo brano e volevo vedere se effettivamente avevo capito bene, secondo me ci ho beccato appieno, perché quando non vuoi parlare di qualcosa che è così talmente intimo, significa che solo la musica può raccontartelo. E quindi noi ci andiamo a sentire La Pena, ancora Yank con Metal Zone. La Pena, Yank, un'altra canzone adrenalinica questa sera, non ci vogliamo proprio fermare. Ma voglio lasciare la parola a loro per farvi dire dove ascoltarli, dove seguirli, perché sicuramente vi staranno piacendo. Quindi lascio la parola a Edoardo per farci spiegare un po' i loro contatti. Allora, da domani il brano sul nostro SoundCloud sarà scaricabile gratuitamente. I brani, si mettono tutti gratuitamente. Poi dopo una settimana, 10 giorni, saranno su Spotify, iTunes, eccetera, eccetera. La nostra pagina Facebook. No, io non sono molto bravo in queste cose. Allora, sono www.facebook.com/3@Enk, scritto HNK. La nostra pagina SoundCloud è www.soundcloud.com/enkband, sempre scritto Enk HNK band trattino 1, e là trovate tutti i nostri brani, tutta la nostra storia. C'è da dire che io non la conosco proprio. Infatti, Mari, ti fare un'interrogazione: qual è la nostra pagina Facebook? Qual è la vostra pagina Facebook? Vostro da giustificare. mia nonna non sa bene. Cercate Enk in Facebook, vi usciranno. Sì, Enk sì, tutto maiuscolo, ci troviamo. Adesso siamo qua. Come vedete, una maschera antigas sono loro. Quindi subito andate sul loro sito, seguite, là troverete ancora tutti i contatti che Edoardo adesso ha gentilmente elencato. Certo, no, ma insultateci pure, perché noi amiamo molto gli insulti, soprattutto. Insultateli con moderazione. E le critiche, soprattutto dei pelatiel. Ecco, ma io vi insulto, visto che sono anche io pelatiello. Anch'io sono molto pelato, non sono un pelatiello, sono un pelatiello doc. Me lo posso permettere? Ecco, io vorrei tornare alla vostra playlist. Certo. Perché un altro brano che voi avete scelto, questo gruppo, ho sempre cercato di evitarlo in qualsiasi modo. Ma non so a chi ti stai riferendo. Questa sera non ci riesco, perché i My Vitriol fa parte della vostra playlist. Io su questo gruppo ho qualche riserva. Non lo Anche so chi io. Di voi ha scelto questa canzone. È colpa di Mario. Colpa ma di non sono Mario. Capi a conoscerli. Cioè, anche sui Muse mi è ricaduto, su Escape proprio. Escape. Perché My Vitriol? Perché Always Your Way? Forse c'è qualche messaggio nascosto dietro questa canzone che tu hai preso come modello, oppure qualcosa del genere? No, non relativamente al testo, è proprio il gruppo che mi piace, le accordature che usano, gli effetti. Poi comunque c'è da dire che sono legato ai gruppi che ascoltavo una 15 anni fa, infatti sia i Muse che i My Vitriol li ho conosciuti, diciamo, da ragazzino. Gruppi recenti, ti dico la verità, Queens of Stone Age, penso che mi troverai d'accordo. Sì, ma sono tutti gruppi che già esistevano, tipo quello volevo dire, che rispecchia, diciamo, il mio essere ancora di quando ero ancora un ragazzo. Sono rimasto in un certo senso, cioè, pizzico sia di nostalgia, sia su uno duro che mantiene sempre, diciamo. E allora noi ci andiamo a sentire Always Your Way, My Vitriol, con Yank e Metal Zone. E rieccoci dopo i My Vitriol ancora con Yank. E voglio andare subito avanti nella vostra scelta musicale di questa sera, che veramente mi sta appassionando, perché dobbiamo parlare di nuovo di una vostra. Non so che non ti piace parlare delle tue canzoni, però io sento. Quasi vede tanto. Cioè, questa sera devi fare l'artista, quindi okay, devi subire e soffrire. Ci provo. Regina. Mo seriamente mi devi spiegare Regina, perché io il titolo della canzone forse ho capito qualcosina, però me la devi spiegare tu, voglio che me la dici tu. Allora, Regina è uno dei pochi pezzi riusciti come testi, diciamo, che parlano sempre di quello che viviamo oggi. Ma la Regina è una persona vera oppure... No, la Regina è una figura metaforica, diciamo, però è la classica mignottona che... capace di fare di tutto pur di raggiungere uno scopo. Lo so che le femministe adesso mi daranno addosso. Spezzo una lancia a tuo favore. Perché... Ma guarda, no, io non sono, però ci sono. Basta sintonizzarsi sul canale 5 alle 3 del pomeriggio e vedere ragazzine di 20 anni che sembrano donne di 40 anni. Che vogliono far di tutto pur di apparire. Per me è triste questa cosa, non c'è contenuto, non c'è. Pur di arrivare. Bravo, non c'è. E Regina, beh, parla sia della. Tu mi hai chiesto Regina, questa è la figura femminile del brano, però ci sono anche altre figure. C'è il maiale goffo, che è il provinciale che s'atteggia a chissà chi. C'è il nanetto burbero, che può essere qualsiasi politico. Di destra, di sinistra, che il brunetto a burbero, ma non solo brunetto, ce ne stanno un sacco, perché i nani non sono solo quelli che sono bassi, io adoro i nani, sono quelli che sono bassi moralmente. Allora io ho cercato, mi è uscito un pezzo abbastanza metaforico. Io amo molto Regina, e infatti noi lo suoniamo sempre a fine serata. Beh, ti dico, voglio spezzare una lancia a tuo favore, perché anche Dante Alighieri nella sua Divina Commedia, insomma, ha fatto... Non facciamo paragoni! Io lo posso fare, questo paragone, perché... In effetti è quella un po' l'ispirazione che io avevo capito, perché in effetti l'Italia è la regina, insomma, sì, di questo, sì, periodo. Indubbiamente, sì. È una regina abbastanza... una regina senza corona, una regina senza regno. Sì, ma la corona l'ha persa da parecchio, secondo me. Ma la corona non intesa come monarchia e come, sai, come istituzione, ma la corona come dignità. La corona, come dicono a Roma, è caduta. È caduta. Per tornare adesso un po' più patriota, ecco, con un grande rimpianto di ieri sera, perché io ancora non riesco a capire come ha fatto l'Italia a perdere ieri sera, però lasciamo perdere questa cosa. Io adoro l'Irlanda, però devo dire la verità, ti favo Italia ieri, però l'Irlanda mi sta troppo simpatica, io è troppo bella. Fanno una birra buona, perciò, Le irlandesi sono le ragazze più belle che ho visto in Europa, cioè sono bellissime. Non esagerare. Sono rosse con gli occhi, sono brune con gli occhi azzurri, io sono rimasto per me rimangono sempre italiane, spezzo la quindicesima lancia fuori, quindi nessuno ti dirà niente. Okay. Lo diranno anche le femministe, dai. E noi ci andiamo a sentire Regina con Yank, ancora qui con Metal Zone. erano Yank con Regina. Mi raccomando, riascoltateli, riascoltateli, riascoltateli. Ritorniamo, ragazzuoli, per questo penultimo break, perché dopo ci delizierete ancora con la vostra musica dal vivo. Okay. Stasera non badiamo proprio a spese, a spese, a nulla. Live and loud, sempre da Via Roma a Poggio Marino, qui da Lady Action. Mi raccomando, domani su SoundCloud, mi raccomando, scaricate il nostro brano, se vi va, lo sentite in macchina, lo sentite sul gabinetto, lo sentite ovunque vogliate. Scaricate, ci fa un piacere. Voi scaricate due volte il brano, il brano nel cesso, soprattutto però è la pena. Però non scaricate il brano nel cesso, mi raccomando. Ragazzi, scaricate davvero, perché i Yank sono una band che secondo me merita veramente tantissima, e questa sera ci hanno dato loro in realtà la possibilità di parlare, dai, di farvi un po' conoscere, di conoscervi anche meglio, perché Radio Action è una porta, ma non si chiuderà mai questa porta, quindi perché ascoltate, no? Radio Action. Ci vedremo prossimamente, oppure ci vedremo online, mi farai un video, farei qualcosa. Però noi torniamo alla vostra playlist, perché c'è l'ultima canzone delle vostre canzoni esterne scelte per Metal Zone. Lo so che mi stai odiando in questo momento. Un pochettino, perché in questo momento tu mi devi far passare una canzone dei Marlene Kunz, e so perfettamente che la colpa è tua di questa canzone. Troppo è mia, però guarda, questo disco è troppo bello, questo dei Marlene Kunz è bello, soprattutto prodotto da Warren Ellis, ci tengo a dirlo, che sarebbe il tutto fare di Nick Cave and Bad Seeds, e a me piace un sacco, quindi sono a palla, lo so, avete ragione, però... Ciao. Gli piace. Che gusti. E quindi il titolo è proprio adatto, perché a fior di pelle ci andiamo a sentire i Marlene Kunz. Yank con Metal Zone. Sempre una scoperta. Sono le volte che proprio non ce la fai più, che vorresti volar per davvero nel blu, dipinto di blu, per poterti sentire leggero. Impassibile. vita, quinto cerchio nel muso dell'inferno, nulla la realtà. Ci sono istanti che vivere una merda, nessuna cosa al mondo sa come si disperda. In quegli istanti cui vivere una merda che va da fuoco a poi è purtroppo cosa certa. Sono le volte che proprio non ce la fai più, che vorresti volar per davvero nel blu, in tinta di blu, per poterti sentire leggero come il cielo impassibile. E rieccoci per l'ultimo break, prima di salutarci con questa serata dedicata a Yank. Volevo ringraziare voi che ci state ascoltando, voi che mi ascolterete e ci ascolterete nei prossimi giorni. Voglio ringraziare la Proloco che ci ospita e ci ospiterà anche quest'anno, quindi un ringraziamento enorme a loro che ci sopportano più che supportano. E voglio anche ringraziare tutto questo magnifico sistema che è Radiation, ce ne saranno di cose quest'anno, ce ne saranno di cose quest'anno. Mentre Edoardo fa da sottofondo, si scaldano per il loro live finale per Radiation. Loro sono Yank e ve li lascio tutti. Si dimena il buio fra di noi, come una serpe in seno a consolarmi più che mai. Le luci gridano le lame su di te, ma è solo il tuo odore che mi taglia finché puoi. Seguo appena un po', ti seguo appena un po', mentre mi accorgo che il mondo mi sussurra testa in giù. Il fuoco su di noi, gli spari su di noi, e ridono delle nostre cicatrici sempre più. Come sai, tutto finirà. La tua schiena tace, non mi parla più. Sogghigno agli uomini in nero con le facce tutte blu. Lo senti, si dimena il buio su di noi, e quella serpe in seno che non ride neanche più. Ma come sai, tutto finirà. Yank, improvvisata, live acustica, acustico improvvisato, ma grandissimi, grazie ragazzi. Voglio grazie ancora, a voi, grazie a voi. Voglio ancora ringraziarvi per essere venuti qui. Vi rinnovo l'appuntamento, venitemi a trovare, perché io ogni mercoledì ancora non mollo e sono sempre volentieri, qui. Volentieri. Con Metal Zone, magari parliamo di qualche gruppo che a voi non piace, visto che stasera me l'avete fatti sentire a me. No, davvero, veniteci a trovare quando volete. Sì, sì, sicuramente. Siamo qui per voi. Vi ringrazio ancora, Edoardo, Mario. Grazie, Yank. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Ciao, buona serata. Buona ciao. Serata a tutti. Ciao da Amon. Grazie ciao. Per essere stati nella Metal Zone. Radiation. Radiation.